Una piccola breve omelia sul Vangelo della Passione che abbiamo ascoltato quest'anno, essendo l'anno C, il Vangelo secondo Luca. In queste due omelie che farò vorrei dividere in due parti questo Vangelo. La prima parte, diciamo, fino al momento in cui Gesù si trova dinanzi alle autorità, quindi al processo, quindi tutto quanto l'antefatto di quello che succede dal discorso di addio, l'ultima cena in poi, e poi domani la seconda parte. Ora, c'è un'espressione di Gesù molto forte, tipica del Vangelo di Luca, che vorrebbe dare un po' il tono di queste brevi, spero, considerazioni. Questa è la vostra ora, è l'impero delle tenebre. Il momento in cui si è scatenato il finimondo contro Gesù è da lui chiamato in questo modo. La passione e la morte di Gesù è il momento in cui si manifesta l'impero delle tenebre. Al male e al suo principe, che è il diavolo, viene concesso di devastare e addirittura di mettere le mani, di stendere, di uccidere attraverso i suoi collaboratori il figlio di Dio. Ora, noi dobbiamo sapere una cosa molto importante. Noi che siamo Chiesa e siamo la Chiesa, abbiamo a che fare con il nostro Signore. Sapete che San Paolo dice che la Chiesa è il corpo mistico di Cristo. Lui è la testa e noi siamo il corpo. Che significa questo? Significa che quello che ha vissuto Gesù nella sua persona, la Chiesa lo vive nel corso del tempo e della storia, specialmente in alcuni momenti di forte prova, di forte tensione. Gesù, il Gesù, secondo la redazione di Luca, dice a San Pietro: Simone, Simone, Satana vi ha cercato per vagliarvi come il grano, attento a te, io ho pregato per te che non venga meno la tua fede, ma tu una volta ravveduto conferma i tuoi fratelli. Allora, cosa succede nei tempi di prova, nei tempi in cui la Chiesa deve seguire per divina permissione le sorti del suo Signore? Questo riguarda tutti noi. Allora, andando a scorrere rapidamente, cosa può succedere? Il tradimento, il bacio, non solo il tradimento, ma il tradimento dato nel modo più becero che si possa dare, attraverso un bacio. C'è chi in tempi di prova e di tribolazione tradisce la fede, tradisce il Signore, si volge altrove. C'è chi, e in questo è caduto anche Pietro, il capo della Chiesa, rinnega il Signore Gesù, ha paura, quindi la paura dinanzi alla persecuzione, la paura dinanzi alla tribolazione, la paura dinanzi alla sofferenza, non alla cattiveria, spinge a rinnegare. È il caso di San Pietro. Poi, altro particolare, cosa succede al Getsemani? Catturano Gesù. Uno dei presenti, San Giovanni, poi dirà che era stato proprio San Pietro, tira fuori questa spada, adesso vedremo che cos'è, e taglia l'orecchio del sommo sacerdote. E solo Luca, tra gli evangelisti, dice che il Signore lo tocca e lo guarisce subito. L'immagine del Gesù misericordioso di Luca. Che cos'è questo? Le reazioni scomposte nei momenti di trova e di tribolazione. C'è qualcuno che pensa di poter risolvere il problema con mezzi umani, anche illeciti, tipo la violenza. Quando Gesù dice, e lo dice anche questo, è un particolare del Vangelo di Luca, dice: guardate, vi ricordate quando vi ho mandati a due, senza soldi, senza denaro, vi siete morti di fame? Dice: no, quello è il momento in cui sentivate la mia presenza, eravate accompagnati da me. Nei momenti di prova questa presenza la sentirete di meno. Prendere la spada non vuol dire indugiare alla violenza, ma è l'immagine di chi adesso dovete essere forti voi, è il tempo in cui voi dovete combattere. Per combattere dovete fare qualcosa di molto importante che gli apostoli non hanno fatto. Sapete qual è? Pregare. Gesù si prende con sé nel Getsemani Pietro, Giacomo e Giovanni, dice: pregate per non entrare in tentazione. Cosa fanno anziché pregare? Dormono. E cosa hanno fatto gli apostoli quando hanno catturato Gesù? Sono tutti scappati. Hanno fatto tutti una brutta figura. Allora, già è conclusa l'omelia. Noi dobbiamo sapere che ci sono momenti e c'è da pensare che il momento storico che stiamo vivendo è un momento di forte prova, sia per la Chiesa e non solo per la Chiesa, come potete ben capire. In questi momenti bisogna essere forti. Il Signore è con noi, prega per noi, ma ci chiede di combattere santamente con Lui e come Lui, per affrontare nella maniera migliore la prova ed uscirne vittoriosi. Attenzione che Gesù, faccio un anticipo su quello che dirò domani, dice, quando gli chiedono tu sei il Cristo, dice, ma se ve lo dico non mi crederete, ma da questo momento il Figlio dell'uomo siede con potenza alla destra del Padre, da questo momento, ma come da questo momento, da lì a poco l'avrebbero ammazzato. Lui dice, attenzione, io sto cominciando a sedere alla destra del Padre, non dopo la resurrezione e l'ascensione, ma da adesso, per come sono capace di affrontare, vincere e superare questa prova. Poi domani, per chi sarà la messa delle palme, vedremo quello che ha fatto Gesù, perché Gesù nelle sue reazioni è il modello di come si affronta il tempo della prova. Attenzione a non tradire, a non rinnegare, a non usare modi scomposti e umani per uscire dal momento di prova e soprattutto a non abbassare le difese immunitarie spirituali. In questi momenti la tentazione di agitarsi e fare qualcosa è grande, ma la cosa principale da fare è quello che ha detto Gesù: pregate per non entrare in tentazione, perché lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Quindi nei momenti di prova la prima attenzione, stringersi forte con Gesù, tenere alto il livello della preghiera e della vita di grazia, sapendo che solo sulle forze e sulla potenza che viene da Dio potremo affrontare e vincere ogni prova. Siamo lodati Gesù e Maria.